Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Molti cittadini non sono rimasti contenti, ovviamente, delle nuove misure del decreto. Lo stiamo vedendo. Questo è anche comprensibile. Tutti speravano, comunque molti speravano, di ritornare presto alla normalità. Ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro, in modo forte. Oggi il Presidente del Consiglio Conte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo aver illustrato ieri le misure per nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'appunto per la fase 2, la famosa fase 2 a partire dal 4 maggio, oggi ha detto, visitando alcune città in Lombardia, Milano, Bergamo, Brescia, insomma tra le più colpite, ha detto questa cosa, nel senso ha riconosciuto che molte categorie e molte persone insomma sono rimaste insoddisfatte delle misure annunciate ieri per la fase 2 del 4 maggio, però dice in questo momento per quella che è la situazione, per il fatto che dobbiamo ancora convivere con il virus, non è stato possibile fare diversamente o di più. Però poi vedremo durante la trasmissione come alcuni comuni, alcune regioni, si dice, stanno andando in ordine sparso, cioè stanno prendendo delle iniziative loro, sia a Roma, sia poi il Veneto di Zaia e altri comuni, la Lombardia stessa, per esempio sulla questione delle messe. E a proposito di alcuni aspetti, come per esempio quella della messa, oppure la questione dei congiunti, no? Che cosa significa questo termine, chi può andare a visitare chi in questa fase 2, lo chiariremo con, ritorna l'esperto di questi temi, che è il Presidente dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti, dove sembra che addirittura si parli di più vittime che durante la guerra del Vietnam, che sapete che è stata la guerra della disfatta degli Stati Uniti. Insomma, anche per iniziare questa settimana, non straordinarie notizie nel senso buone, anche se però ci sono degli aspetti positivi sul calo dei contagi, dei decessi. Per fortuna si sta piano piano prendendo la direzione giusta, però come diceva il Presidente del Consiglio Conte, non è che siamo fuori dalla pandemia, e a maggior ragione lo ha sottolineato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora addentriamoci tra poco sui vari temi, però prima la sintesi della giornata. Vi ricordo, come sempre, per i vostri messaggi, i vostri commenti, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Il coronavirus in Italia: sono 199.414 i casi positivi e 26.977 i morti. Scendono sotto quota 2.000 i contagi, tornano a calare i malati, aumentano i guariti. Sono però ancora 333 le nuove vittime nelle ultime 24 ore. Fase 2, tanti dubbi, dal dilemma dei congiunti alle critiche delle confessioni, e comuni e regioni vanno in ordine sparso. Conte in visita a Milano, Bergamo e Brescia. Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, dice, non cerco facili consensi. Il coronavirus nel mondo: superati 3 milioni di contagi, mentre il numero dei decessi è di 207.583 e sono oltre 125.000 i morti per coronavirus in Europa. E l'OMS avverte: siamo lontani dalla fine della pandemia. Genova, entro domattina la città avrà di nuovo il suo ponte. Sport: annullato il Gran Premio di Francia di Formula 1, la stagione comincerà il 3 luglio in Austria. Nel calcio italiano ancora polemica sulla ripartenza degli allenamenti. Partiamo quindi dai numeri del coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati totali del coronavirus nel nostro paese, compresi morti e guariti, è di 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739. Il dato è stato reso noto, come sempre, quotidianamente dalla Protezione Civile. Sono salite le vittime a 26.977, con un incremento in un giorno, quindi rispetto a ieri, di 333. Mentre i guariti sono 66.624, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. In Lombardia continua a calare la pressione sugli ospedali, sono ben 956 in meno i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva, a cui vanno aggiunti 26 posti letto in meno occupati. I decessi in totale sono 13.449, con un aumento di 124 rispetto a ieri. Il totale dei positivi in regione è di 73.479, con un aumento di 590, anche se i tamponi effettuati sono stati solo solo finora 5.053. E all'indomani dell'annuncio della fase 2 da parte del Presidente del Consiglio Conte, Regioni e Comuni si muovono in ordine sparso. Il governo lasci alle regioni la facoltà di decidere una propria via verso la riapertura. Questo lo chiede il Presidente della Liguria Giovanni Toti in vista della fase 2. Un piano timido e confuso. Gli amministratori locali non nascondono la loro delusione per il decreto sulla fase 2 e vanno in ordine sparso per cercare di colmarne le lacune. In Veneto, ad esempio, una nuova ordinanza autorizza gli spostamenti nella regione per manutenzione e riparazioni nelle seconde case o sulle barche ormeggiate. L'approccio del governo è sbagliato, dice il governatore Zaia. Penso che ci voglia razionalità e capire anche che il sacrificio sì lo si può fare, ma non protrarre in questa maniera. Nel DPCM mancano regole precise, attacca anche il governatore della Lombardia Fontana, che pensa di autorizzare le messe, mentre quelli di Liguria e Umbria, Toti e Tesei, accusano il governo di aver imbavagliato le regioni. Su scuola e famiglia siamo delusi, aggiunge il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini, che chiede di anticipare le aperture di bar e ristoranti. Restano grandi dubbi su famiglie, mascherine, parchi e sulla app Immuni, sostiene infine il sindaco di Milano Sala. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Zaia, presidente del Veneto, apre anche gli spostamenti verso le seconde case, ma la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, frena, dice, nell'ambito del decreto che scatterà il 4 maggio non è possibile. Ha spiegato De Micheli, che ha parlato anche di incentivi per la mobilità sostenibile e alternativa anche in forma di carta prepagata da cui scalare i soldi per pagare servizi di mobilità condivisa come il car sharing o il bike sharing. E tra i vari aspetti ci sono scuola e funzioni religiose ad animare il dibattito politico. Tra scuole e chiese chiuse, la fase 2 suscita perplessità nelle forze politiche, mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene con un messaggio dedicato agli studenti. Le scuole chiuse sono una ferita per tutti, ma anzitutto per voi ragazzi. I partiti di maggioranza si schierano sulla questione. Nella videoconferenza della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, PD e Liberi Uguali ribadiscono la richiesta di ripensare ai concorsi in modo da stabilizzare i precari. Mentre da Italia Viva Matteo Renzi ribadisce che gli studenti di terza media e quinto superiore dovevano tornare a scuola a maggio per prepararsi all'esame. Altra questione è quella del culto. Dopo le proteste della CEI, il PD prepara un emendamento per far celebrare messe e funzioni delle altre religioni e Silvio Berlusconi di Forza Italia pensa che vietare le messe sia irragionevole. Infine la Lega e il fronte economico. Il Carroccio deposita una mozione di sfiducia contro il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In ogni caso, tra poco ci sarà il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia a chiarire, come vi dicevo, un po' di dubbi sul nuovo decreto. E ci sono varie iniziative politiche emerse dopo la protesta di Chiesa Cattolica e non solo per la mancata riapertura dei luoghi di culto per le funzioni religiose. Dopo il giorno dello scontro tra governo e vescovi si torna a dialogare sulla possibilità di una parziale riapertura alle celebrazioni religiose. Il mantenimento del divieto delle messe fino al 1 giugno aveva fatto scattare una ferma e inedita protesta della CEI, che aveva predisposto da tempo un piano di misure molto cautelative presentate al Viminale, ma che il Comitato Tecnico Scientifico ha respinto. Ora i segnali che arrivano sono di spiraglie per un accordo che possa permettere le celebrazioni in sicurezza, un po' come stabilito per i funerali, cioè con numeri limitati e assicurando il distanziamento, ma naturalmente queste norme riguardano tutte le religioni, quindi non solo i cattolici. Il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, Noemi Di Segni, assicura che gli ebrei si atterranno scrupolosamente a quanto previsto dal decreto, senza alimentare polemiche, mentre l'imam Pallavicini, che guida le comunità musulmane, si dice d'accordo con la CEI sulla difesa di principio della libertà di culto. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. E con la morte di una dottoressa oggi sale a 151 il bilancio dei medici morti per l'epidemia di Covid-19, mentre sono circa una quarantina gli infermieri morti. All'estero il numero di casi di coronavirus nel mondo ha oltrepassato quota 3 milioni, è quanto emerge dal conteggio aggiornato dalla Johns Hopkins University. Il quadro globale della progressione del virus fornito dall'Università americana indica più esattamente 3 milioni e 303 mila contagi, mentre il numero dei decessi è di 207.583 e oltre 125.000 sono i morti in Europa. Quando i casi accertati di coronavirus nel mondo sfiorano i 3 milioni e le vittime sono oltre 206.000, un'analisi effettuata dalla Financial Times rivela che i morti globali in realtà potrebbero essere più del doppio. La Russia, con oltre 87.000 contagi, supera la Cina, il cui governo, dopo aver registrato zero casi negli ospedali di Wuhan, riaprirà dopodomani in città alcune attrazioni turistiche. Gli USA invece stanno per raggiungere il milione di contagi, ma nell'ultimo giorno le vittime, 1.300, si sono quasi dimezzate rispetto alle precedenti. In Europa, prima apparizione pubblica per Boris Johnson, il premier inglese ha esortato a persistere nella prudenza perché, ha avvertito, un secondo picco sarebbe un disastro anche economico. La Spagna segue gli USA per numero di contagi, quasi 210.000, mentre la Germania, con i suoi 155.000, impone le mascherine con sanzioni che in Baviera arrivano a 150 euro. La Francia si prepara invece allo sblocco, il cui piano verrà presentato domani, mentre la Svizzera ha già iniziato, riaprendo tra l'altro parrucchieri e vivai, mentre la campanella nelle scuole dell'obbligo suonerà l'11 maggio. E mentre il Belgio si rivela il primo paese per mortalità al mondo, con 612 decessi per milione di abitanti, dall'altra parte del pianeta la Nuova Zelanda annuncia di aver vinto la battaglia, dopo aver registrato meno di 10 casi al giorno, uno solo ieri. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte: siamo lontani dalla fine della pandemia, siamo preoccupati della tendenza in crescita, per esempio in Africa la strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i paesi, ma il ruolo della politica, dice ancora l'OMS, è fondamentale, soprattutto quello dei parlamentari. E aggiunge dallo studio che diversi virologi stanno effettuando in tutto il mondo sulla struttura del virus, possiamo concludere che fino adesso il Covid-19 si è comportato in modo abbastanza stabile e i cambiamenti che ci sono stati erano previsti. Il governo italiano, intanto prima i mercati, scusate, chiusura in rialzo oggi per Piazza Affari, il FTSE MIB ha guadagnato oltre 3 punti percentuali, positive anche le altre borse europee. E dicevo che il governo intanto è alle prese col decreto aprile per aiutare imprese e famiglie. Bene il decreto liquidità varato dal governo per aiutare le aziende in difficoltà e le garanzie pubbliche a sostegno dei prestiti, ma lo Stato potrebbe vedersi costretto a mettere in campo altre risorse per fronteggiare il rischio insolvenza delle imprese, un rischio stimato oltre il 10%, lo dice Banca Italia, che lancia così l'allarme e suggerisce un uso più esteso dell'autocertificazione da parte degli imprenditori sui requisiti necessari per chiedere i prestiti alle banche coperti da garanzie pubbliche. E sempre sul decreto liquidità, l'associazione bancaria si aspetta un boom di domande da parte delle piccole e medie imprese sui prestiti fino a 25.000 euro garantiti dal fondo di garanzia, una spinta dovuta alle semplificazioni decise su come presentare la domanda. Il governo intanto lavora al decreto sui nuovi aiuti a famiglie, lavoratori e imprese da varare subito dopo il via libera del Parlamento alla relazione sullo scostamento di bilancio da 55 miliardi di extra deficit. Oltre al blocco dei licenziamenti per altri 2 mesi e il prolungamento di congedi speciali e bonus babysitter fino a settembre, il provvedimento dovrebbe anche destinare 5 miliardi alla ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito delle mascherine, il governo fissa il prezzo massimo a 50 centesimi per le mascherine chirurgiche, ma tra le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese del tessile riconvertite, scoppia la protesta e dicono: non ci rientriamo con i costi. Il commissario Arcuri ha firmato l'ordinanza che fissa a 50 centesimi il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche. Alle farmacie che hanno già mascherine pagate più di quel valore, Arcuri ha assicurato che lo Stato pagherà la differenza. In più il commissario ha firmato contratti con 5 imprese, 3 lombarde, una veneta e una siciliana, tutte già specializzate nel settore protezioni o pannolini, per produrre mascherine a un prezzo medio di 38 centesimi. Secondo Arcuri si può arrivare a una produzione italiana di 25 milioni di mascherine al giorno anche grazie alle 107 imprese già finanziate con il Cura Italia. Non tutto però sembra essere così semplice. Il prezzo finale di 50 centesimi è insostenibile secondo le imprese del settore tessile e moda riconvertite. Il direttore di Confindustria Moda, Gianfranco Di Natale. Noi 50 centesimi non ci siamo dentro. Il costo industriale di produzione è intorno, va dai 40 ai 55 centesimi. Anche per CNA il prezzo finale a 50 centesimi è sotto costo, a meno che il governo non metta sul piatto consistenti sconti fiscali. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte delle residenze per anziani vanno avanti le inchieste. A Milano nuove acquisizioni di documenti negli uffici della Fondazione Dognocchi, una delle 26 strutture in cui indaga la Procura. Tra i vari aspetti su cui si stanno concentrando i magistrati anche le indicazioni regionali di non inviare gli anziani negli ospedali. Al Pio Albergo Trivulzio ora l'emergenza passa anche attraverso la ricerca di dispositivi sanitari per gli operatori. Servono 224.000 camici monouso, stimano dall'istituto dove arriva come nuovo coordinatore scientifico il virologo Fabrizio Pregliasco. Basta al massacro per queste strutture, qui come altrove, dice Pregliasco, si sta facendo il massimo per tutelare gli anziani. E per cambiare notizie, entro domattina Genova, con il sollevamento dell'ultimo impalcato, avrà di nuovo il suo ponte sul Polcevera. È iniziato il varo dell'ultima campata, la 19ª, che sarà in quota entro domani mattina, e ne parleremo proprio collegandoci con Genova. E poi, a proposito invece del disagio psicologico, la pandemia fa ammalare anche la mente degli italiani, che soffrono sempre di più di ansia, aumentano i disturbi del sonno e le paure. Per far fronte a questa sofferenza è partito il nuovo numero verde di supporto psicologico del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Tutti i giorni, dalle 8 alle 24, oltre 2.000 professionisti specializzati risponderanno al telefono oppure online alle richieste di aiuto. Il servizio sarà sicuro e gratuito, spiega il Ministero. Il numero è 800 833 833, ve lo ripeto, ma poi lo metto anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, il numero verde 800 833 833. E poi, per chiudere, lo sport. È stato annullato il Gran Premio di Francia di Formula 1, in programma il 28 giugno. La stagione comincia dunque in Austria dal 3 al 5 luglio sul Red Bull Ring di Spielberg, probabilmente senza tifosi. Nel calcio italiano intanto è ancora polemica sulla ripartenza degli allenamenti. Quindi, Immobile potrà andare di corsa a trovare i parenti entro il sesto grado, sempre che abitino nella regione Lazio, e Dybala potrà correre lungo le rive del Po, ammesso che faccia la coda con altri runners agli ingressi contingentati. Purché Conte e Spadafora si mettono d'accordo una buona volta, perché non sia mai che quei ricastri viziati poi pretendano di scroccare un tampone in più. Intanto Federica Pellegrini potrà tornare a nuotare da sola nella piscina sotto casa, esattamente come faceva prima, mentre Elisa Di Francesca non ha ancora capito bene se lo sport in cui ha vinto due ori olimpici sia individuale o di squadra, e nel frattempo passa l'aspirapolvere. In questo quadro, ben più che surreale, ammiriamo una volta di più l'equilibrio del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, quindi ci hanno più o meno detto che il 18 maggio ci si potrà allenare. Continueremo a dialogare e a collaborare con le istituzioni, dice. E fa benissimo Gravina a ricordare che il sistema dello sport italiano intero sarebbe danneggiato dallo stop definitivo della Serie A. Insomma, non dimenticatevi da dove arrivano i soldi, viene suggerito alle orecchie di Mercante. Intanto le società cascano dalle nuvole. Dallo Tito all'Inter fanno presente che i loro centri di allenamento sono grandi, svariati ettari e contengono molti più campi e margini di lavoro sicuro e distanziato di un normale parco cittadino. Ma ciò nonostante restano proibiti. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. E proprio a questo proposito vedo adesso una dichiarazione da un dispaccio dell'ANSA del ministro dello sport Spadafora, che dice: sono ridicole le affermazioni di un complotto contro la Serie A. Mi muoverò sempre nella consapevolezza che il mondo del calcio va salvato. Lo dice in diretta Facebook e dice: io devo scongiurare che ripresa dello sport possa avere nuovi contagi, dobbiamo poterlo fare rispettando le necessarie regole. Daremo, dice sempre Spadafora, il massimo in modo che tutto possa riprendere in sicurezza e usufruire del benessere che lo sport consente. Bene, direi che si chiude questa prima parte di sintesi della giornata per cominciare ad addentrarci dentro alcuni temi in particolare con gli ospiti. Vedo già molte vostre domande per il portavoce dei funzionari di polizia. Chiederò di essere molto sintetico perché arrivano un sacco di domande ed è normale, no? Come sempre, il giorno dopo un nuovo decreto, tanti dubbi, forse in particolare in questa fase, che è magari anche la più delicata, la fase 2, in cui bisogna cominciare appunto ad allentare un pochino, a riaprire, e varie cose per il momento sono poco chiare. 349-238-6666, ve lo ricordo il numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante le notizie, in parte ve le ho sintetizzate nella prima parte della trasmissione, della puntata, e adesso invece cominciamo ad approfondirne alcune, come sempre con gli ospiti da questo punto in poi. Roberta Giordano, sempre con voi, vedo tanti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e così anche i WhatsApp al 349-238-6666, chi chiede per esempio se può andare a trovare la figlia che è nella stessa regione ma in una provincia diversa, posso starci quanto tempo e devo fare l'autocertificazione, qualcun altro che dice voglio andare a trovare mio marito e tanto che non vado a trovarlo siccome è cardiopatico, ci sono delle difficoltà, anche questo naturalmente, e poi molti altri, qualcuno che dice a proposito di attività motorie, ma io posso prendere la macchina e andare in collina a distanza a camminare. Bene, su questi dubbi, almeno alcuni di questi, non tutti perché sono tantissime le domande, cercheremo di fare chiarezza dopo. Adesso invece ci occupiamo sempre naturalmente della fase 2 delle varie questioni e anche della politica, delle reazioni. Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, non è un momento questo di libera tutti, lo voglio dire chiaro, questo governo non cerca il consenso, questo governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare il gran numero dei cittadini. Però i cittadini devono avere fiducia sul fatto che le nostre decisioni sono decisioni responsabili nell'interesse generale e collettivo di tutti. Ecco, Conte lo ha detto questa sera in visita in Lombardia, in particolare a Milano, Bergamo e Brescia. A chi lo intervistava gli chiedeva insomma di questo nuovo documento, decreto della Presidenza del Consiglio che lui ha illustrato ieri in conferenza stampa. Perché ci sono tanti aspetti che non soddisfano tante categorie. Intanto saluto il nostro Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Allora, titolato da varie parti il rebus della fase 2, nel senso che ci sono tante cose ancora da chiarire, tanti dubbi. Questo lo faremo in particolare dopo con appunto il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Però intanto da un punto di vista politico delle reazioni, Alberto, si va dai vari punti da chiarire e che sono stati quindi oggetto di polemiche, dalla questione dei congiunti, che poi cercheremo appunto di approfondire con i comuni e le regioni che prendono delle loro iniziative. Per esempio, all'indomani appunto di questo nuovo decreto, le amministrazioni locali sembrano muoversi nelle loro direzioni. A Roma, per esempio, è stato deciso che ci sarà zero canone per le aziende di car sharing, mentre nel frattempo però il Ministero dell'Economia e delle Infrastrutture sta studiando degli incentivi in tal senso. Quindi intanto Roma però ha deciso per conto suo. Il Veneto di Zaia consente lo spostamento per andare delle seconde case, mentre la ministra dei trasporti in un'intervista in TV alla Rai, De Micheli, ha ribadito il divieto di raggiungere le seconde case. Poi c'è la presidente dell'Umbria, Tesei, che dice che accusa il governo di aver messo il bavaglio alle regioni, mentre Toti, presidente della regione Liguria, chiede più libertà. In Lombardia, dove è arrivato appunto, vi dicevo, il presidente del Consiglio Conte, si vogliono autorizzare le messe, perché anche questa è una cosa che non è stata inclusa invece in questo attuale decreto per questioni, diceva Conte appunto, e gli esperti di sicurezza. E intanto c'è tutta la protesta della CEI, cioè della Conferenza dei Vescovi, e anche dei musulmani, che dicono non siamo stati ignorati in queste decisioni, mentre gli ebrei italiani dicono noi ci atteniamo alle regole, non vogliamo fare polemiche. In tutto questo, Alberto, che cosa ci vedi? È vero che sono state fatte delle aperture troppo timide, come per esempio accusa l'opposizione, ma anche Italia Viva di Renzi, che pure fa parte del governo? No, forse è ancora una volta poco spiegata la gradualità e il punto di arrivo effettivo, anche se sono state annunciate tre blocchi con tre date corrispettive. Però la complessità poi dei singoli temi legati alle aperture inevitabilmente scarica addosso a degli annunci troppo generici una valanga di quesiti che poi rimangono non risolti, questa incertezza e questa catena di dubbi che poi la gente percepisce, perché a cominciare dalla definizione di congiunti, che è stato uno svarione lessicale, ma che poi probabilmente fa riferimento anche a una cultura, come posso dire, di metà del Novecento più che altro, e quindi è altri tempi, un grande problema operativo. Ecco, questa cosa dà l'idea di un rumore di fondo, di un'incertezza di fondo che poi crea questo clima di disorientamento e di sfiducia alla fine. La questione, per esempio, della polemica con la CEI sull'apertura delle chiese al culto, insomma, e alle messe, è esemplare, direi, perché fino a ieri sembrava effettivamente si fosse innescato un braccio di ferro, veramente di questi, anche di polemiche vecchio stampo, diciamo così, libera chiesa in libero stato, oppure cultura laica versus cultura religiosa. Cosa che non è, perché poi oggi l'intervento che Conte ha fatto a braccio, appena sceso alla prefettura a Milano, ha spiegato effettivamente che stanno cercando di trovare una modalità con cui consentire poi alle chiese di riaprire in massima sicurezza. Anche quello se a questo proposito, perdonami Alberto, a questo proposito forse mi pare che non l'abbiano detto esplicitamente, però almeno per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, mentre appunto gli ebrei hanno detto noi ci atteniamo, i musulmani si sono detti esclusi, ignorati, però per lo più sono... per lo più alle moschee si vedono tanti uomini che vanno e giovani, mentre forse per le chiese cattoliche il fatto che prima di tutto si è pensato a loro e ancora alla chiusura per il momento, perché forse sono più frequentate da persone grandi di età e che sono quelle che più ci hanno rimesso con la salute e con la vita in questi due mesi cupi. Questo può anche darsi. La considerazione di fondo che stavo facendo è questa, sì, che io credo che la due mesi più di quarantena, di isolamento, di autodisciplina in casa di tutti gli italiani che hanno obbedito sostanzialmente per la stragrande maggioranza, direi un fenomeno anche sorprendentemente positivo in termini collettivi, dimostra che le persone hanno capito. Io penso che questo tipo di scongelamento verso una lenta riapertura dovrebbe partire da un'idea di una maggior fiducia verso i cittadini italiani, cioè cosa che non c'è. Il modo con cui il mondo della scienza e per gli rami quello della politica che sceglie sulla base delle indicazioni della scienza è l'idea che la popolazione sia di fatto un popolo di bambini che tendenzialmente non farebbe le cose che gli vengono dette o non percepisce fino in fondo la gravità della cosa. Io credo che tutti abbiamo capito perfettamente che potremmo essere dei potenziali assassini qualora fossimo dei portatori sani del virus verso persone magari più deboli, anziane, o viceversa potremmo essere, come posso dire, oggetto di bersaglio da parte di altri. Quindi questa percezione che c'è presso la cittadinanza è la vera chiave di volta per organizzare la ripartenza, perché se per esempio tu apristi... È comunque complessa la ripartenza, culto, no Alberto? I luoghi di culto mantenendo le distanze, probabilmente hai ridotto del 90% il rischio. Mi ha colpito molto l'altra settimana vedere la manifestazione che è stata fatta in Israele con una precisione geometrica degli scostamenti tra un manifestante e l'altro. Ecco, io credo che... Tu dici che in Italia se qualcuno facesse una manifestazione la farebbe nello stesso modo? Ma io voglio sperare di sì, francamente, perché dobbiamo immaginarci tutti come i prigionieri del Salvador, oggi gira una foto dei top shot internazionali che forse qualcuno che sta sentendo la radio ha visto, diciamo agghiacciante, dove ci sono questi carcerati seminudi messi tutti pressati uno all'altro in una prigione del Salvador e devono fare una verifica sul contagio. Vabbè, noi non siamo questo, per fortuna. Ecco, Alberto, non siamo quello. C'è la paura, forse la grande paura, no? Prendersi la responsabilità di aprire in un modo più ampio per poi magari ritrovarsi tanti altri morti, dover richiudere, magari trovarsi davanti a una popolazione che non vuole di nuovo rintanarsi nelle case, di nuovo agli arresti domiciliari, senza che sia colpa di nessuno. No. Però il rischio zero non esiste. Il rischio zero non esiste, l'abbiamo capito. Io credo che oramai vada spiegata ulteriormente, vada diciamo indotta la gente con la massima capacità persuasiva a cambiare comportamenti e per seguire le distanze, il lavaggio delle mani, le mascherine, le protezioni. Ed è il nuovo e new normal, come si direbbe, la nuova nostra normalità che un po' alla volta io credo che sia diventata patrimonio di tutti e che potrebbe consentire comunque anche alle persone di uscire senza creare assembramenti. Il problema vero sono i mezzi pubblici, le occasioni appunto di assembramento effettive. Però, quello è un tema molto delicato che da organizzare. In fase di soluzione, quindi con lo scalettamento degli orari. Alberto, Alice da Bologna, per esempio, dice: Roberta Cara, ma perché si discute delle chiese e nulla si dice di teatri, cinema e altri fondamentali luoghi di cultura? Nessuno ne parla, ti prego fallo tu. Nel senso, avevo visto anche forse un attore, un regista, qualcuno che aveva detto: ma perché nelle chiese sì, se si tiene il distanziamento e i teatri non potrebbero fare la stessa cosa? Capisci? Allora, di categoria in categoria, no. Ognuno poi ha le sue ragioni. È esattamente così, ma probabilmente si potrebbe andare a teatro con un posto ogni tre. Io credo che sono i teatri che a quel punto non aprirebbero perché non hanno più il margine, a quello diventa un altro problema, nel senso che le riaperture di luoghi economici con un potenziale ridotto a un terzo di quello del normale naturalmente ha un impatto sui margini di guadagno pazzesco e sui margini di gestione proprio industriale di questo tipo di attività. E rende più competitivo non aprirli del tutto. Alberto, però ti faccio sentire. Diventa un altro problema di una fase 2 da gestire, magari con forme di indennizzo, e questo avrebbe più senso. Ti faccio sentire altri passaggi di Conte, per esempio, dove dice che la fase 2 è una fase di convivenza, non di superamento del virus. La fase 2 è quella di convivenza con il virus, non la fase della liberazione dal virus. Oggi noi siamo con 105.000 contagiati. Domenica abbiamo avuto 2.300 contagiati nuovi, 256 nuovi decessi. Quindi se affrontassimo questa fase 2, che significa convivere con un virus che continua a diffondersi, non con un atteggiamento prudente e responsabile, avremmo la conseguenza ovviamente di comportamenti assolutamente imprudenti, assolutamente irresponsabili, e chiaramente la curva epidemiologica ci sfuggirebbe di mano. E poi un altro passaggio dice sarebbe irresponsabile prendere ulteriori misure. Secondo me sarebbe responsabile affrontare dopo tante rinunce e sacrifici la fase 2 in modo diversamente prudente, in modo assolutamente sconsiderato, con avventatezza, improvvisazione. Non ce lo possiamo permettere, lo dobbiamo per rispetto a tutti coloro che sono morti, alle famiglie che stanno soffrendo e a quelli ancora che sono contagiati, e dobbiamo preservare la salute di tutti gli altri cittadini. Per esempio, a proposito di altre categorie che si sono molto lamentate, che insomma hanno paura poi di non riaprire, come per esempio i parrucchieri, no? O i centri estetici, Conte ha detto potrebbero essere nuove occasioni di contagio queste. Alberto. Sì, e tra l'altro, vero, scusa, a questo proposito, ecco, avevo in mente anche questa cosa. Ho notato che ieri, nel lungo discorso che ha fatto Conte illustrando questo nuovo decreto, non ha minimamente fatto accenno allo smart working, mentre mi pare che in un decreto precedente o nelle bozze si dicesse che tutti quelli che lo stanno facendo e il lavoro funziona nei vari settori devono continuare a farlo per evitare che ci sia congestione, no? Nelle strade, nei mezzi di trasporto, sui posti di lavoro. Ecco, di questo mi pare che non abbia fatto accenno ieri. Sì, è vero, ma fa fede quanto detto prima, cioè quanto era stato annunciato precedentemente, quanto è scritto poi negli atti precedenti. Effettivamente l'esperienza dello smart working sarà forse uno dei lasciti più rilevanti in questa nuova cultura che dovremo assorbire anche nelle modalità di organizzare l'impresa e il lavoro, e credo abbia avuto performance che sono andate ben oltre le più rosee aspettative, e che anche per alcuni imprenditori immagino siano state una sorpresa molto molto positiva. E questo continuerà, io credo, almeno per pattuglie di lavoratori magari più ridotte, non proprio così diffuse come sono adesso in alcune realtà lavorative, però è una modalità che ha dimostrato di una sua efficienza, perché ha consentito a molte produzioni di restare aperte nella massima sicurezza. Questa è sicuramente una cosa che bisognerà continuare, e penso che molti comparti si continuerà a fare. Il resto è l'oggetto del fare impresa ai tempi della fase 2 e della fase 3, cioè aumentare i controlli, i presidi sanitari, le modalità con cui sanificare gli ambienti, le modalità con cui rendere tendente a zero il rischio di diffusione dell'epidemia con gli strumenti di lavoro, con le modalità con cui si opera in certi settori. Ecco, questo è la sfida che c'è adesso e che hanno in gran parte su molti settori risolto anche le parti sociali, imprese e sindacati che si sono trovati, hanno fatto protocolli con le consulenze dei virologi, con l'assistenza dell'INAIL, che è molto efficiente in questa fase su queste tematiche. Senti, Alberto, abbiamo ancora proprio poco meno di un minuto, ti voglio far sentire il sindaco di Milano Sala sulla famosa app, no? Che dovrebbe in qualche modo accompagnarci in questa fase 2. Per me è una delusione che ieri non si sia chiarito nulla su Immuni, sull'app. Guardate, è fondamentale, ne parlavo l'altro giorno con il mio collega sindaco di Seul in Corea del Sud, e lì è stata fondamentale. Ok, loro sono molto evoluti, ho capito, ma noi non siamo l'ultimo paese del mondo. È da troppo tempo che se ne parla e ancora non si sa nulla. E sai che su questo ci sono molte polemiche dall'inizio, sui dati sensibili, sulla privacy, sul fatto che i dati, chi poi li gestirà, dove saranno archiviati, no? Però rimprovera Sala, adesso per chiudere, Alberto, a Conte di non aver fatto minimo accenno neanche all'app. Eh beh sì, questo è una cosa, è uno strumento moderno che potrebbe riuscire a tenere sotto controllo eventuali rush di diffusione dell'epidemia, però non se ne sa più nulla, è stato annunciato con una certa enfasi nei giorni scorsi. Forse perché subito ha creato tante polemiche, allora devono vedere un po' come... Si sono palesati subito gli scogli su cui quella barca è andata a incagliarsi, a rovinare il fasciame, diciamo la verità. Quelli erano anche abbastanza prevedibili, a dire il vero. Tra l'altro si assommano al fatto che invece, almeno in un paio di regioni, tutti i cittadini di Lombardia e Veneto, per esempio, stanno ricevendo gli SMS dove viene chiesto di sottoscrivere, di iscriversi all'app regionale, che dovrebbe servire appunto a tenere d'occhio la diffusione. Anche se poi lì, e qui chiudo, Alberto, dei cittadini in Lombardia risulterebbero confusione su confusione, evidente. In Lombardia risulterebbero diverse migliaia di persone positive a casa che avvertono: guardate che noi stiamo così, abbiamo questi sintomi, andiamo al lavoro, però ancora non ricevono tamponi. Quindi chiudiamo qui, sennò diventa infinito il discorso. Per il momento ci fermiamo in tutte queste, diciamo, osservazioni sulla fase 2 e a presto. Allora, intanto buon lavoro Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao caro Alberto. Breve pausa di riflessione, di respiro, e poi torniamo con un altro ospite che sapete è il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Con tante vostre domande, almeno qualcuna riusciamo ad evaderla. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi, come sempre 60 minuti ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di approfondimenti con gli ospiti e anche dei vostri commenti, dei vostri interventi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666 con tante domande di cui almeno in parte cercheremo alcune di evaderle tra pochissimo col prossimo ospite. C'è qualche allentamento studiato? Abbiamo e daremo la possibilità dal 4 maggio di poter fare attività sportiva, l'avete sentito, attività sportiva anche allontanandosi dalle immediate vicinanze della propria abitazione, purché si rispetta la distanza di 2 metri. Ci potrà essere libero sfogo all'attività motoria, purché si rispetti la distanza di 1 metro, anche qui allontanandosi dalla propria abitazione, in parchi pubblici. Sono misure studiate per affrontare questa fase, per cercare di alleviare anche le sofferenze, immagino anche psicologiche, che tutti stiamo affrontando. E questa, a parte la possibilità di andare a trovare delle persone che mi sono carissime, della mia famiglia, che non vedo da parecchio, era una cosa che aspettavo io personalmente, ma molti, questi, di poter riprendere a fare attività fisica all'aperto, perché qua in Lombardia c'è misure ancora più restrittive, a Milano non fare la corsetta neanche sotto casa. Ma adesso ne parliamo naturalmente di questi, dei tanti chiarimenti, dei dubbi, no? Di tanti aspetti che come minimo non sembrano chiarissimi, con inevitabilmente un ospite prezioso qui Effetto Notte che ritorna, che è il dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Dottor Laquaniti, buonasera, bentornato. Buonasera a lei, dottoressa Giordano, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, vogliamo quindi cominciare ad addentrarci in tutti questi aspetti, le domande sono tantissime, lei però voleva ricordare anche una persona, un fatto sì, importante e gravissimo. Sì, ecco, io la ringrazio di questo, però la notte appena passata è morto un nostro collega, un agente scelta da 37 anni, si chiamava Pasquale Apicella, lascia 2 bambini, una di pochi mesi, è morto perché stava cercando di sventare una rapina in banca. Due persone sono state già arrestate, la terza ho motivo di credere che lo sarà a breve. E lo voglio ricordare perché, nonostante il dramma che sta vivendo il nostro paese per il coronavirus, i poliziotti continuano a morire per fare il loro lavoro, e vorrei che questo venisse ricordato quando forse qualcuno di troppo, e non solo magari su Facebook ma anche su qualche giornale, ci fa passare per gli sceriffi o vuole ironizzare troppo sull'attività che svolgiamo. Noi non siamo solo il controllo delle autocertificazioni, ma la criminalità continua a essere presente, noi continuiamo a contrastarla. Gli scenari che si preparano per il prossimo autunno sono per noi purtroppo scenari brutti, siamo pessimisti sia dal punto di vista delle piazze sia dal punto di vista dei rigurgiti della criminalità organizzata e non. E perché credo sia giusto che quando un servitore dello Stato muore per difendere tutti, sia giusto, credo, ricordarlo, e la ringrazio di questa opportunità. E ha fatto benissimo, naturalmente, e mi associo a lei. Senta, adesso sulle tante domande invece delle ascoltatrici e degli ascoltatori sui vari dubbi che ogni volta questi decreti sollevano, perché naturalmente magari prima sono date delle linee generali, poi dopo si va un po' più nel dettaglio. Cominciamo, allora, la prego solo, Laquaniti, su queste risposte di essere il più sintetico possibile, che sono veramente tante, vediamo quante riusciamo ad evaderle. Sappiamo naturalmente che l'elemento che ha creato più incertezza, più dubbi e anche molte polemiche è quello dei congiunti. Cioè relativamente al fatto di potersi spostare dal 4 maggio col nuovo decreto anche all'interno della propria regione, sempre con autocertificazione, di poter andare a trovare dei parenti. Però questo termine congiunti appunto dubbi e polemiche, perché i congiunti chi sono? Soltanto quelli di sangue o sono anche... Allora, ecco. Questo mi sono preparato un pochino, perché molti sono andati a cercarlo nella Treccani. Chi si occupa di diritto lo deve cercare all'interno dei codici. L'unico articolo che noi troviamo all'interno del codice penale, nell'articolo 307, è l'unico articolo che ci definisce in modo chiaro e preciso chi sono i congiunti, ovvero sia gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonni, genitori, figli, nipoti, e quei soggetti con cui si acquisisce un rapporto di parentela attraverso il matrimonio. Quindi gli affini, qui abbiamo anche gli zii e i cugini. Anche le unioni civili, no? Rientrano, giusto? Ovviamente, certo, assolutamente sì, grazie di avermelo ricordato, anche chi è parte di un'unione civile, questo anche con la modifica del 2012. Quindi in questo senso, tra l'altro, il rapporto di parentela si ferma entro il sesto grado. Questa è l'unica definizione che noi troviamo da un punto di vista giuridico su un codice. Poi il grande dilemma di queste ore, mi permetto di dire, è che molti hanno riassumato e ricordato alcune sentenze della Corte di Cassazione che in più di un caso ha stabilito che anche il fidanzato è assimilabile al congiunto. Il problema è che, come tutti sanno, la Cassazione giudica il caso concreto. È chiaro che un'eventuale estensione del termine congiunto anche ai fidanzati apre, non spetta a me dirlo, però aprirebbe scenari di una certa importanza in termini di movimenti, perché nel momento in cui si parla di fidanzati, di legami stabili, noi non possiamo certo sindacare quale legame è stabile e quale non è stabile. Dai 18 ai 99 anni dovremmo accettare l'autocertificazione di chi dichiara di andare dal proprio fidanzato, fidanzata, chiaro, o altro. Certo. Teresa invece dice: cara Roberta, lavoro in ospedale a Roma, dove ho la residenza. Mio marito cardiopatico vive e risiede vicino Orvieto, dove io sono domiciliata. Sono 2 mesi che non ci vediamo per timore che potessi esporlo a un rischio contagio. Dopo il 4 posso andare usando l'autocertificazione? Chiede quindi da Roma a Orvieto, questo, non è la stessa regione. Allora, fermo restando che chi ha fatto la domanda ha competenze mediche, quindi lei valuterà il discorso del rischio sanitario. Da un punto di vista giuridico io posso dire di sì, perché uno degli aspetti forse più importanti e anche chiari del nuovo DPCM è che finalmente è consentito in ogni caso il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Questo è molto importante anche per le tantissime persone che magari non lavorano più al nord e hanno mantenuto il domicilio o la residenza al sud, che potranno finalmente far ritorno almeno nei luoghi di origine, dove quindi hanno mantenuto la residenza o il domicilio o dove comunque hanno l'abitazione. Ma per le seconde case invece? Perché sulle seconde case, la ministra De Micheli in giornata ha detto no, le seconde case non valgono, mentre per esempio Zaia in Veneto ha detto sì, raggiungimento delle seconde case. Questo, guardi, glielo dico molto sinceramente, sì. Su questo noi come associazione funzionale abbiamo chiesto proprio una circolare che possa essere una interpretazione autentica. Perché nel momento in cui il DPCM, io per ora uso le parole esatte del DPCM, quando il DPCM indica come motivi validi il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione, sembra dare una lettura, sembra dare una possibilità estensiva per tutti i luoghi che comunque sono riconducibili alla propria abitazione, sia essa quella principale o quella secondaria. Quindi anche fuori regione? In questo caso, per come scritto, ripeto, per come scritto sembrerebbe di sì, fermo restando che questo varrebbe dopo il 4 gennaio, maggio, data sì. Entro la quale ci aspettiamo una circolare che possa chiarire tutta una serie di dubbi legittimi che solo il legislatore può chiarire definitivamente. Definitivamente, perché noi facciamo i poliziotti, non vogliamo fare né i giudici né il legislatore. Ognuno credo che sia importante in questo momento faccia il proprio. Ripeto, in questo momento la dicitura esatta è residenza, domicilio o abitazione. Quindi può essere anche l'abitazione non principale, per come la leggo io. Christian dice, in merito alla possibilità di svolgere attività fisica e motoria all'interno dei confini della regione, non mi è chiara una questione. Posso andare a fare una camminata in montagna o in collina, ovviamente utilizzando l'auto per raggiungere l'inizio del percorso senza incorrere in sanzioni? Quindi sempre nella stessa regione. Anche questo purtroppo è un dubbio a cui io non mi sento di dare una risposta assolutamente certa. Perché sicuramente nell'ambito del comune possiamo spostarci se vogliamo raggiungere un'area verde, un parco che ci consenta di correre, magari di respirare aria migliore rispetto a quella che magari potremmo respirare in periferia. Nel momento in cui dovesse essere consentito dal legislatore di spostarsi, avremmo il rischio di avere persone che legittimamente, prendendo l'auto, potrebbero spostarsi a Verona sul lago di Garda o nelle città vicino al mare per una bella passeggiata sul lungomare, creando ovviamente molto più movimento. E infatti anche in questo caso abbiamo proprio insistito sulla necessità che venga chiarito questo aspetto, cioè se farlo lontano da casa vuol dire farlo anche non vicino all'abitazione, ma comunque nell'ambito del comune, o se con questa finalità è possibile raggiungere anche località diverse. Chiaro. Anche in questo caso è una scelta dove il legislatore si assume la responsabilità di creare minore o maggiore movimento di persone. Vediamo se riusciamo ancora a trattare due o tre domande. Dice Glenn da Rimini, si riallaccia probabilmente anche a quello che lei sta dicendo, dice ma andare al mare da solo con mio figlio di 14 anni per pescare posso? Lui abita a Rimini, eventualmente mi posso spostare fino a Ravenna? Ecco, questo dipende se sarà consentito lo spostamento anche tra comuni diversi. Perché addirittura nelle prime voci che erano circolate sul DPCM che paradossalmente il mare sarebbe stato una possibilità solo per chi aveva una casa vicino al mare, quindi in un comune che comunque è sul mare. Questo è un nodo che solo il legislatore può chiarire, anche perché nel frattempo, ricordiamolo perché vorrei evitare equivoci, tutte queste regole non entreranno in vigore prima del 4 maggio, quindi questo weekend comunque si sta a casa tutti quanti. Antonella da Celle Ligure, così vediamo se ancora una o due domande perché abbiamo pochissimi secondi, dice buonasera, non ho capito, dice Antonella, se posso andare nel comune vicino, 2 chilometri per la spesa, per necessità di non spendere più il doppio nel mio paese turistico, grazie da una Ligia in quarantena uscita solo 3 volte, povera Antonella. Qui mi sento di dire assolutamente diciamo di sì anche perché esistono comuni molto piccoli, dove spesso i rivenditori non hanno generi alimentari necessari per diete particolari. Se il movimento è congruo, come posso dire, l'interpretazione ormai è tale da consentire di scegliere in un limite ragionevole di chilometri un esercizio che in termini di qualità ed economicità possa accontentare le nostre esigenze. Andrea, volevo chiedere se sarà possibile giocare a tennis in 2 persone in un campo pubblico sito nel comune di residenza, visto che questo sport consente una distanza di sicurezza. No, perché c'è un motivo molto semplice. È comunque vietata l'attività ricreativa e ludica. Molti hanno mal interpretato il discorso della possibilità di riprendersi a fare sport e a fare allenamenti. In realtà quella è una norma finalizzata agli atleti professionisti o anche a coloro i quali, pur non essendo professionisti, sono atleti di interesse nazionale. Tradotto, serve a consentire a quegli sport che generano un importante indotto economico di far riprendere quindi, ad allenare la risposta i propri è no, atleti. In questo caso. Solo attività motorio sportiva singolarmente, si può giocare. Chiarissimo. La quale ti abbiamo giusto questa domanda, poi dobbiamo proprio lasciarci, stiamo molto sforando tempo. Elena dice: vorrei far visita a mia figlia, stessa regione, altra provincia, posso starci tutto il giorno, serve l'autocertificazione. Il decreto dice ok, la visita, ma no una riunione familiare. Non mi è chiaro, dice Elena. Però abbiamo veramente pochi secondi, dottor La Quinti. Allora, la visita non è legata al tempo, nessuno sarà col cronometro per contare quanto tempo si sta. Da questo punto di vista il problema è più una raccomandazione che un discorso di sanzione. È chiaro che se un soggetto ha un monolocale e va tutta una famiglia di 6 persone a trovare il nonno, è chiaro che lì rischia di essere un assembramento, ma garantisco che i poliziotti non entreranno nelle case per vedere la presenza o meno di un assembramento. Qui è più una raccomandazione che un divieto tassativo, mi sento di dire. Chiaro. Grazie dottor Girolamo Laquaniti, grazie mille per il suo contributo. Grazie, a voi. Grazie per i suoi chiarimenti. Appena avremo la circolare magari ci risentiremo. Certamente. Già sodato, già precettato, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, c'è la viabilità, è ritardissimo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Abbiamo parlato sinora in questa puntata, tanto per cambiare, del coronavirus, in particolare della fase 2, di vari aspetti di questa ripartenza graduale, dovrebbe ripartire dal 4 maggio, ma c'è un'altra situazione di ripartenza importantissima, che è quella che riguarda il nuovo ponte di Genova, l'ultima campata che piano piano sale a 5 metri all'ora di velocità, sta salendo in quota per completare lo scheletro del nuovo viadotto. E dopo questo, dopo 620 giorni dal tragico crollo del Ponte Morandi, vi ricordate, che ha causato il 14 agosto del 2018 ben 43 morti. Ci colleghiamo con Genova con il nostro Andrea Ferro. Andrea. Buonasera Roberta. Ci buonasera, siamo, quindi siamo agli sgoccioli? Siamo, sì, allora, a scanso di equivoci, domani mattina ci sarà un'unica linea retta a tagliare di nuovo la skyline di Genova, la veduta della Valpolcevera, quindi a sovrastare il torrente, però le prime auto, ripeto, a scanso di equivoci, molto probabilmente le vedremo circolare sul ponte solo a metà luglio, però chiaramente ha una valenza materiale, simbolica, il momento che domani sarà in qualche modo celebrato anche dal Premier Conte, che farà una visita a Lampo a Genova insieme alla ministra De Micheli alle 10:30-11. Questa campata raggiungerà praticamente la quota con la quale salderà le due parti del ponte, che appunto a quel punto saranno un viadotto unico. Per quanto riguarda questa lenta ascesa della quale parlavi, in realtà si è già interrotta, ma non per ragioni tecniche, ma proprio per una ragione di cerimoniale, perché il momento, diciamo così, topico dovrà avvenire alla presenza del Premier Conte, appunto, come dicevo, domani, allora, intorno alle 10:30-11, sarà chiaramente un momento molto importante, non solo per Genova, ma potremmo dire anche una leva di speranza, di futuro in questo tempo di grandi paure e di grandi incertezze. Un'Italia che non si arrende e che riparte. Magari ci ricolleghiamo domani con lo nostro Andrea Ferro da Genova. Certamente, ciao Andrea, un abbraccio. Ciao Roberta. Ciao Andrea. Invece adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania. Marco, ciao. Ciao, buonasera. Insomma, ci sono dati sempre piuttosto pesanti, addirittura si parla di le vittime come nella guerra del Vietnam, 55.000 morti finora negli Stati Uniti e addirittura secondo una ricerca dell'Università di Yale i morti sarebbero molti più delle stime, forse all'inizio ci sono stati il doppio di morti negli Stati Uniti da coronavirus, Marco. Ma sì, diciamo le statistiche sono appunto ancora molto molto incerte e con ogni probabilità dovranno, esatto, il bilancio sarà molto più tragico di quello ufficiale, diciamo. Al momento comunque anche quello ufficiale, come ricordavi, continua a salire significativamente, appunto siamo vicini ai 55.000 morti, quindi più morti in pochi mesi che non nell'intera guerra, tra poco, che non nell'intera guerra del Vietnam. Senti, ma le indicazioni 58.000 soldati, infatti 58.000, ma le indicazioni invece di Trump di farsi le iniezioni di disinfettante e tutto il resto sono rientrate o adesso è pronto a una nuova così, iniziativa, diciamo? Beh, così. Sembra che l'abbiano perlomeno convinto per il momento a essere leggermente più taciturno. Non è chiaro se quando riapparirà ai briefing, oggi è previsto un briefing formalmente tardi in serata dell'amministrazione della task force del coronavirus, non ci sono però indicazioni se ci sarà la presenza, diciamo, certa di Trump o meno, che ama sempre, diciamo così, cogliere un po' di sorpresa. Di sicuro, come ricordavi, le sue prese di posizioni così allarmanti appunto su queste presunte cure in realtà tossiche, appunto iniezioni di disinfettanti, per non tornare anche a ricordare la clorochina, la idrossiclorochina, ecco, hanno sicuramente sollevato preoccupazione tra i suoi stessi collaboratori, i suoi stessi alleati, che appunto il presidente, amando così parlare e sparlare, diciamo, di cose di cui ha una comprensione in realtà molto limitata, non partecipa neanche alle riunioni in cui vengono discusse in realtà la sostanza degli argomenti, delle ricerche mediche, e quindi ecco la preoccupazione, la raccomandazione a questo punto anche di alcuni dei suoi consiglieri è che, diciamo, quantomeno riduca un po' le sue comparse, i suoi interventi. Così dopo non si deve correre al riparo. Grazie caro Marco Valsani, un abbraccio a te da New York. Ciao Marco, e anche alla città di New York, naturalmente. Ciao Marco. In attesa di vincere ci sentiamo alle 22.